La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. L'articolo 85 riguarda la durata in carica del Presidente della Repubblica. Il Presidente è eletto per 7 anni. Questa è la carica di maggior durata che abbiamo nella forma di governo italiana. Infatti, il Parlamento resta in carica 5 anni, cioè la durata della legislatura, e il governo ancor meno, perché il governo è legato alla fiducia rispetto alle Camere. Le cariche di garanzia, quindi, hanno una durata maggiore rispetto alle cariche della politica attiva. Per questa ragione, il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni e i giudici costituzionali addirittura per 9. L'articolo 85 non scioglie il dubbio della rieleggibilità. Sappiamo che nel mondo molte costituzioni pongono il limite dei 2 mandati al Presidente della Repubblica. Tutti ricordiamo ad esempio la Costituzione degli Stati Uniti d'America. Invece in Italia non è disciplinata la possibilità di una rielezione. Per anni si è discusso sulla possibilità di eleggere nuovamente il capo dello Stato uscente e per anni tendenzialmente si è esclusa questa possibilità. Ma per la semplice ragione che in una forma repubblicana la durata delle cariche deve essere limitata. E quindi pensare a un presidente che resti in carica per 14 anni o addirittura per 21 anni con un terzo mandato sembra incompatibile con l'idea della forma di governo repubblicana. I fatti della storia poi superano sempre la fantasia e quindi tutti ricordiamo ciò che è accaduto col presidente Napolitano. Infatti il presidente Napolitano nell'aprile 2013 è stato rieletto e la cosa è sembrata ancora più strana anche perché il presidente Napolitano era già anziano in età. Non è stato un caso che dopo 2 anni il presidente si è dimesso. Quest'articolo è la buona occasione per ricordare l'elenco dei presidenti della Repubblica. Sappiamo che Enrico De Nicola era stato capo provvisorio dello Stato e che il 1 gennaio del 48 è stato eletto ai sensi della Costituzione anche presidente della Repubblica. De Nicola, dopo pochi mesi, si dimise. Del resto, ricordiamo che nella storia De Nicola è rimasto famoso per essersi dimesso da tutte le cariche che aveva assunto. Quindi si dimise da presidente della Repubblica, si dimise da presidente del Senato e poi si dimetterà anche qualche anno dopo da presidente della Corte Costituzionale. Il 12 maggio del 48 il Parlamento elesse al 4° scrutinio Luigi Einaudi, al compimento dei 7 anni nel maggio 1955 Giovanni Gronchi, ancora nel 1962 Antonio Segni. Sappiamo che Antonio Segni non riuscì a portare a termine per ragioni di salute il suo mandato presidenziale e quindi nel 1964 venne eletto Giuseppe Saragat. Nel 1971 venne poi eletto Giovanni Leone, addirittura al 23° scrutinio, perché fu una delle elezioni più difficoltose per raggiungere il quorum previsto dalla Costituzione. Anche il presidente Leone non riuscì a compiere il suo mandato per dimissioni leggermente anticipate e quindi nel 1978 venne eletto Sandro Pertini. Ancora nel 1985 Francesco Cossiga, nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro, nel 1999 Ciampi e poi nel 2006 e nel 2013 Napolitano. Il presidente in carica Sergio Mattarella è stato eletto il 3 febbraio 2015 ed è stato eletto al 4° scrutinio, quindi il 1° scrutinio senza la maggioranza speciale, ma soltanto con la maggioranza degli aventi diritto. È interessante notare in questa carrellata dei 12 presidenti che tutti i primi presidenti erano anche stati membri dell'Assemblea Costituente.